non ti sento, niente da fare, nulla, niente da fare, c'è proprio una cosa allucinante, è la stessa prova che avevamo fatto anni fa con Walter e tutta la troupe, da Platamona, c'è una posizione di Platamona che in UHF non si sente un cacchio. Io a Platamona arrivavo con la monogatto a, non mi ricordo come si chiamava, vabbè poi non mi ricordo da come si chiamava, comunque c'aveva la casa a Platamona e c'aveva la direttiva lì. Sì, ma lascia perdere le direttive, quello è Michele, Falco 1, capito, l'abbiamo fatto anche con lui le prove anni fa, però se parliamo di antenne, parliamo di antenne, se parliamo di gommini, parliamo di gommini. La correlazione verticale, se c'è una riflessione, non c'è vista ottica, è un'altra cosa. La direttiva supera tutto, supera la riflessione e supera tutto. Quindi un'altra guba già, capito? Infatti ti ho detto, adesso cambio la polarizzazione e la direttiva e vedrai che io ti sento bene qua. Ehi, ma perché devi cambiare la polarizzazione? Per me, non ne vale la pena, poi magari in questa frequenza ci stufiamo e cose, io ho paura che magari metti l'antenna e poi ti stufi, spendi i soldi inutilmente, come abbiamo fatto nell'LPB, lo butti da una parte, io questi apparecchi ce li avevo buttati da una parte da anni, non li stavo più usando. Io non devo spendere niente, io ho due turrini su, uno che fa la parte HF e uno che fa la parte V e U, io ce li ho tutte e due sul tetto le direttive, sotto il rotore, ho quella 9 elementi per le VHF e 9 elementi per le UHF a polarizzazione orizzontale, quella delle UHF che intanto non la uso, ok, non la uso a quella polarizzazione, la giro al contrario, la metto a polarizzazione verticale e la uso in PMR, per fare delle prove, per capito, non devo spendere niente, io c'ho tutto, non mi manca nulla, la giro solo per vedere se riesco a pizzicarti con la direttiva polarizzazione verticale, ti dovrei sentire anche a polarizzazione orizzontale, penso. E beh, da giù non puoi girarla, non me la puoi puntare verso di me. No, adesso è attaccata, devo salire su e agganciarla, infatti io ci ho preparato tutto e devo agganciare il piede perché l'avevo staccato, la verità, certo che posso muovere laggiù, c'è tutto il rotore, il sistema nuovo, posso girare solo, è agganciata solo quella delle VHF, perché ti ripeto, quella delle U non la usavo e quindi ho sganciato il piede e l'ho attaccato da un'altra parte che mi serviva, adesso non mi serve più da quella parte lì, nell'altra verticale che ho, e quindi la ricollego domani, oggi c'era troppo freddo, ricollego il PL e te la giro domani e tu vedrai che ti sento io, ebbene pure ti sento. Beh, perché fai tutte queste manovre? Non potevi fare più calate? No, beh, quando abbiamo fatto il sistema nuovo, calata ce n'è una sola già, e allora cosa? Che ho speso 250 euro per la commutazione elettronica, cosa mi metto? Tutte le calate? No, è tutto attaccato lì. Ah, vabbè, c'è una centralina che poi ne puoi cambiare da uno all'altro. Certo che sì, la centralina è su. La centralina è su, qua c'è la commutazione a relè, capito? Fino a 5 commutazioni. Però è all'alimentazione, a 12 volts. Capito? È quello della metro, che avevo preso da vabbè, Fabrizio aveva la Telio e gliel'ho dato poi, l'ha venduto a me. Capito? E quindi domani salgo, aggancio e all'altro commutatore e tu vedrai che già ti tiro fuori io, non ti preoccupare. Avanti Marco. Rata Pignara si chiama. Sotto Marco. Io però Gianni giustamente ha fatto quel discorso, fare la calata, un'altra antenna sul tetto, un'altra calata sarebbe sempre a zuffarsi con i condomini probabilmente. E poi magari da un giorno all'altro l'abbandoniamo la PMR, quindi soldi un po' così. Beh, anch'io non la metterei su, cioè se il tetto fosse mio l'avrei già messa, col cavo H1000 o migliore anche, rimessa, però il tetto non è mio, il terrazzo. Non voglio chiedere, capito? Non voglio nemmeno chiedere, perché sai quanto renderebbe questa antenna, anche se piccola, in alto, il terrazzo? Caspita, sarebbe un bijou, ma un bijou. È contento di come è adesso, dai. Casomai se devo fare cose migliori lo faccio dalla macchina. Eh secondo te la 510 renderebbe? E io devo usare la 510 per fare due chiacchiere in PMR, ma non esiste. Io ho quella lì e rende parecchio, perché, ripeto, arrivano tutti e io arrivo a tutte le parti. Se dovessi metterla su, renderebbe ancora di più, ma non me ne faccio assolutamente niente. Io ho anche le direttive, ti ho detto, quindi non devo spendere niente. Io ho tutta l'attrezzatura per la parte amatoriale, ma siccome attività amatoriale lo sto facendo, adesso, visto che c'è, la giro e la uso in PMR, cosa me ne affrutti. Ma tu, Claudio, pensi che se vado alla GBC e compro l'antenna di barra mobile con una base magnetica, la metto sulla ringhiera, pensi che è renta? Già, prima di comprarla io direi di fare una prova con chi ce l'ha già, capito? Chi ce l'ha già? Chi ce l'ha già? Una base magnetica con antenna V e U. Chi ce l'ha già? Bisogna fare la prova prima di acquistare. Ecco, prima di acquistare bisogna fare la prova. Se la prova risulta buona, allora la puoi acquistare. È inutile che l'acquisti e poi ti sentono sempre loro e qua non arrivi o non esci da lì, dal circondario. Sono spese inutili, capito? Ragione Marco. Bisogna fare prima la prova se esci. Se va bene, allora si può acquistare. Se no, lascia stare tutto così, cosa di nafutti. Tanto il problema ce l'hai solo con me, gli altri ti sentono tutti. Quindi, una volta che io risolvo il problema nei tuoi confronti, quindi sono io che cerco di tirarti fuori, il problema è risolto. Io comunque con l'antenna da là che lascio proprio benissimo da sopra da qui, dalla finestra di Marco, già sono in corda con TMM. Io ho la con la VU, la diamante, con la piastrina capita agganciata con la finestra, addirittura alla, c'è la finestra, domino della finestra, già sai com'è la finestra mia, della lanzata. Dito pederasta. Già, non ti ho capito, Antonio. Che già esce l'antenna, ho detto, quella della macchina, esce bene, attaccata alla ringhiera, non preoccuparti, perché io ho l'antennino qua della macchina, piazzata, la piastrina in alluminio, hai capito? Che è attaccata alla finestra della lanzata, esce benissimo quell'antenna. Marco, io se lo ricordo, l'accompagnavo tranquillamente, sentivo la tetta plantavola, la sentino, dopo ho pensato con l'antenna, già lo sai, quella grande, ed era ancora andava anche meglio, ma comunque sono tutti e due. Ciao Marco, mi sentito anche a te. Ehi Antone, ma tu l'avevi rosmetrata l'antenna, l'avevi controllato le stazionarie? Che quello io c'ero rosmetro UHF, VU, che per Gianni io ce l'ho un'antenna 50 cm circa, che è tarata per i 440. Come appoggiarla sulla ringhiera e poi corto il cavo, bisognerebbe fare una... Insomma, portarlo dentro casa il capo. Controllare le stazionarie per vedere come va. Ci vorrebbe un adattatore, ci vuole un barilotto da PL a PL. Poi una spezzone di cavo LG58, no. Anche 58, mi bastano pochi metri, tanto da mettere, di rifare arrivare il cavo dentro casa, mi. Ho capito, ne ho 25 metri di LG58, metri. Ehi, tanto per provami. Oh Gianni, quantomeno misurare le stazionarie dal cavo dell'antenna, che è lungo 4 metri. Cioè metterla sulla ringhiera e provare. Che io ho provato qua a mettere l'antenna senza la base, cioè vi ho tolto la base, ho collegato la calza al tubo per fare da massa, ma stazionarie altissime, ha fallito la cosa. Invece questa stazionaria è nulla, il muro a meno di un metro già, questa è fatta apposta, capito? E tanto mi da GBC, se vai a comprare un'antenna da macchina, Calamita te la fa pagare un bene. Fine ci aggiungi un tot e ci pigli quell'antenna che ho io. Ehi Marco, ma quella lì tu dove l'hai messa? L'hai attaccata alla ringhiera? No, io già ti avrei voluto far vedere, la posta non ce l'hai, non so come fartela vedere. Allora io all'angolo del terrazzino, all'angolo esterno, c'ho un tubo e c'è attaccata l'antenna TV secondaria, la parabola satellitare e in punta ho allungato il tubo e ci ho messo questa antenna qua, che ricordo è da base, non è veicolare, capito? Io ho capito, com'è, ma io anche sul tetto, non so se Claudio se lo ricorda, avevamo messo una tassello, poi abbiamo deciso di metterla da un'altra parte, per non lasciare il buco abbiamo lasciato il tassello con l'occhiello, quelli che stringono il tubo. E quindi ce l'ho, siccome sono antenne che sono leggerissime, basta anche uno, non c'è bisogno di mettere 50 di tassetti, basta un tassello e va benissimo. E diciamo che anche se li metti un tubo corto lì sei in alto, non è che bassa la zona, perché risulta proprio nella mantovana in discesa, perché l'avevo messa e ho fatto passare il scavo dentro per non toccare in terra, di modo che se devono fare lavori sul tetto devono incatramare e fare e non rompere le palle, capito? Ehi, ehi. Poi in macchina, non ne parliamo in macchina. Michelangelo l'altro giorno mi stava dicendo la tene che apre la macchina. Diciamo, quelle che risuonano in PMR sono, dalla più grande alla più piccola, la SG7009, che alta 1,53 m, regolata da me, 1,53 m, ed è grossa, però molto spessa, ha tre bobine mi pare, o come si chiamano. Ed è una 3x5 ottavi mi pare. Poi c'è la CR8009, non originale però, CR8009 che lavora in origine quadribanda, no? Ma non funziona solo in VNU, è lunga 1,20 mi pare. Poi è NR770H, lunga 1 metro, acciaio inox. Poi cosa c'ho? Poi ho quella veicolare con base magnetica che è lunga tipo 49 cm, 48, è una spiralina al centro, quella dovremmo provare da te già, a vedere se va bene. E a quando vuoi facciamo le prove, per vedere solo se va bene, poi al limite me la compro, e se va bene me la compro, almeno perché quando le poche volte che entro mi sento molto... Marco, io con la B10M della Comet bibanda, che è 20 cm d'antenna, da Trento all'Aguto, parlavo con Vittorio, poi fa 5,25 e parlavo in diretta, in VHF, capito? La NR770 è la stessa cosa, uguale, io ho la N, ho quella più corta, è la tua, ma è una favola, funziona benissimo, alla grande, capito? Perché le antenne devono risuonare, se risuonano stai pur certo Gianni che tu risolvi il problema, o che lo metti nella ringhiera o che lo metti ad avanzare, capito? Però io ti consiglio, anziché metterlo nella ringhiera della cucina, ok, quindi lato posteggio auto per capirci, se riesci a metterlo nella ringhiera fronte strada, ok, per farti due chiacchiere ti allunghi il capo, quando ti serve ti posi in usa 8, è meglio perché lì c'è più vista ottica. Ho capito, Cla, ma io avendo una base magnetica posso provarla sia da una parte che dall'altra, io roba fissa non ne voglio mettere, uno perché quando stendono poi si attacca le lenzuola, si attacca di sopra, si attacca l'antenna e li ribucano e fa, e non voglio problemi. E poi anche per l'estetica, io me la metto quando mi serve, poi la tolgo e me la rimetto in casa. Quello lì, una cosa portatile così andrebbe bene. Infatti voglio provare un'antenna che si possa mettere, ma io già uscivo, ti ricordi il primo periodo che io uscivo con l'antenna piazzata nel terrazzo, poi mia moglie me l'aveva fatta tappare il buco della ringhiera che avevo fatto col trapano. L'avevo proprio piazzata nel terrazzo l'antenna. Sì, me lo ricordo, sempre lato posteggio però auto, capito? Allora fai così, base, come ho fatto io ce l'ho su base magnetica, avvitata l'antenna su base magnetica, messa una piastra da 20x20 nella soglia, nel marmo, e appoggiata la base magnetica, che sporge chiaramente leggermente dal marmo, capito? E il cavo fatto entrare dentro, qua, dove c'è la radio, che la finestra è chiusa, no? Passava tranquillamente il cavo, non c'è problema perché c'è il buco degli altri cavi, quindi è fissa, però tu che la vuoi mobile devi mettere una base magnetica con l'antenna avvitata e la appoggi nel piatto dell'angolare, sia dalla parte lato strada sia dalla parte 4, posteggio 8, e vedrai che il problema lo risolvi. In caso contrario, se non lo risolvi, ti ho detto, tra qualche giorno io cambio la polarizzazione e la direttiva, e vedi che ti bisticheggio io, o dici di no, Marco? Secondo me sì. Sì. Per esempio, tu, Claudio, l'hai rosmetrata la tua, quella sulla basetta 20x20, stazionarie ce ne sono, non so se hai controllato, per curiosità. No, no, 1 e 1, se invece non metto la piazza c'è 2 di stazionari. Sì, ecco quello che volevo dire io, mi hai mai anticipato. Ho già, se io metto questa antenna attaccata per esempio a pezzi di ferro di altri tipo, tipo ringhiera in ferro, le stazionarie erano maggiori, ma io l'ho usata dentro casa su una piastra 50x50, no? Ferro, che poi è un ripiano di quelle librerie in ferro, solo che questo è quadrato, e avevo 1 e 2 dentro casa, 1 e 2, massimo 1 e 3 dentro casa. Quindi quando c'è il piano riflettente, non solo la massa, chiamiamo la massa via base magnetica, come si chiama? Vabbè, c'è il piano riflettente e rende molto, rende bene anche. Beh, io la mettevo sul termosifone, l'antenna è uscita. Quando trasmettevo il 27 per un periodo, la mettevo sul termosifone e modulavo da dentro casa, fatti un gomito. Ehi, il termosifone è la canonata, anch'io ce l'ho una base magnetica con antenna VHF, lunga più di un metro. Anche lo termosifone per ascoltare col ricevitore, ma lo sai, lo sentivo tutto, dalla alla Z. Va bene, dai, ho preso il microfono perché io mi preparavo a portare il cane, sono le 8:15 già. Se ci siete, ci sentiamo dopo, ok? Ciao anche a Valerio, momentaneamente vi saluto tutti. Ehi, dai, ci sentiamo dopo. Io fra poco vado anch'io. Ho fatto bene che me l'hai detto perché l'ora è passata e non me ne sono ancora reso conto. Marco, io quando ci vediamo che non facciamo questa prova? E guarda, per dire anche domani potrei venire. Io mi porto anche il rosmetro, porto l'antenna, il rosmetro. Insomma, tutto quello che serve porto, lo spinotto adatto per il tuo apparato, tutto porto, proviamo. Guarda, se la stazionale sono i 5 va bene, ma anche se 1,7, 1,8 non li fa niente, i portatili hanno quei gommini che come li metti vicino al viso avranno male i stazionari, eppure riescono a resistere. L'importante è non fare passaggi falconiani, capito? Fare normali passaggi come li facciamo in 27, dovrebbe resistere. Proviamo, dai. Però non costa niente. Sì, amare. Io allora l'attacco che si mette sull'apparato ce l'ho, quello che poi attacca il piede ce l'ho io, quello lì, non c'è problema. E praticamente serve un'uscita PL dallo scafo. Cosa c'hai, PL o hai altre uscite? Allora, quell'antenna che ho io dovrebbe avere attacco PL, che io ricordi, poi va al rosmetro, no? L'attacco PL va al rosmetro, dal rosmetro c'è lo spezzoncino che ha l'attacco PL e poi ci vuole la riduzione da PL a SMA reverse, che è quell'apparato là, K. Sì, vabbè, comunque al limite spessore ne ho anche io, non c'è problema di questo. Il problema è vedere se l'antenna va bene, perché se va bene io me la ordino così, uguale, e via. E ha risolto il problema. A meno che tu non la utilizzi, quella lì me la vendi tu. Beh, magari quella la utilizzo, ma l'importante è che pigliare il modello uguale. Quella è una Oxin VU1510. Che particolarità, che rispetto alle solite antenne veicolari che sono simili, quella anziché essere tarata a 4,30 e dintorni, è tarata sui 4,40. E quindi è una via di mezzo, è perfetta per PMR delle PD, tutte e due. Capito già, stazionarie buone, pronta già in macchina, di lusso. Capito già. È lunga, ripeto, circa 50, 49, sarà 48, non mi ricordo bene. Capito già. Proviamo. La base magnetica è anche forte, mi. È abbastanza forte, più forte di quelle altre piccoline che ho io. Però beh, dimmelo se vedi di mattina o di sera, così mi faccio provare e niente, vabbè, io sono a casa, così sempre se non è che c'è dopo il cane, se tu mi ci verso che ora vieni, io mi faccio trovare a casa. Eia. Domani sera anche va bene, tipo che ci sia gente per chiedere controlli, mi già. Magari non troppo tardi. Che ci sia appunto gente da chiedere controlli, quindi a mezza serata, no, quando ci sono tutti. Quando c'è Claudio anche, no? Perché lui non entra presto presto. Entra tipo alle 6, 5 e mezza 6. Capito già. Poi io te la posso anche prestare, mi lasciare lì in modo da fare le prove anche da casa mia, a vedere se ti sento, capito? Non è un problema, figurati. Vabbè Marco, ma io sono fatto così, no? Quando la roba è mia, è mia. Vabbè, da poi vediamo, se in caso, intanto se Oxin la ordino dal nostro amico, me la manda subito, me la manda prima delle feste di Natale, me la manda. Via. Ci sono due modelli della 1510, c'è il modello dritto, che è uno stile dritto, oppure il modello che ha la bobina alla base. Bisogna prendere quella con bobina alla base, te ne accorgi dalla foto. L'altra dritta non ha bobina, non mi ispira molto. Non so nemmeno come possa essere bibanda lì, boh. Insomma, quella con la bobina ci vuole. Il prezzo, oh, come io mi ricordo, credo 20 euro, una cosa del genere. Costano poco quelle antenne. Qualcuno si è lamentato che in VHF rende poco, ma a noi interessa la UHF. Della VHF ce ne freghemos. Infatti. E la cosa, la base magnetica quanto costa? No, è tutto uno già. È antenna veicolare magnetica. La base è larga 8 cm mi pare. 8 cm è bella forte anche. Capito già, è tutto uno. Infatti non costa molto, se no vabbè, ci avrei anche altre antenne, base magnetica larga da 16 più antenne, quelle che ti ho detto, NR770H, poi la CR8009 non originale e poi la SG7009 non originale, ma quelle sono spade, non sono antenne, sono antennoli lunghi e anche grossi e pesanti. Sì, non voglio roba lunga, se la devo mettere nel terrazzo e mi devo far fare una piastra, allora da chi la posso far fare? Qualcuno che lavora in zona industriale? Sì, se trovassi una piastra da imbulonare con staff è una cosa posticciami. L'importante è che abbia il piano di massa induttivo e che faccia la piano riflettente. Anche sottile, mi, di alluminietto sottile, ma alluminietto, ferro sottile, mi. Qualcosa di recupero si troverà. L'importante è che sia ferro, materiale ferroso, in modo che faccia, che si attacchi con la base magnetica, no? E va bene, dai. Io salvo imprevisti domani, ti chiamo e ti dico Gianni, se ci sei vengo, dai, e ci leviamo questo dente, che sono curioso anch'io. Cappa, non c'è problema. Facciamo così Marco. Vediamo un po' se riusciamo a risolvere il problema. Cos'è? Non ti ho capito. Ciao Bulldozer. Giusto, è vero, ha ragione. Eia, una, come si chiama, un coperchio. Poi se, però, sai cos'è, se si potesse fissare alla ringhiera sarebbe meglio. Qualcosa che si possa fissare con staff, con viti, a spago, cosa ne gioco, a sputo. Basta che si possa fissare. E adesso la guardo. Fatto bene, grazie. Ciao Massimiliano, ben entrato. Ehi, che Gianni non lo sentono, qua in zona Claudio non lo sente, è una cosa, dal colgomino interno è terribile, bisogna risolvere. Volevo fargli provare quella veicolare mia con un minimo di piano riflettente, c'ho anche il rosmetro B-banda VEU, così controlliamo le stazionarie, capo. Ehi, se poi avesse l'impugnatura anziché piena con... Che si possa legare o fissare alla ringhiera, in modo che non ne cada tutto giù, sarebbe buono. Poi, se dovesse avere stazionarie basse anche con la ringhiera, si può fare, vediamo. Dipende quanto è larga la ringhiera. Vabbè, già si trova la soluzione. Poi una piastrina di metallo anche, se il coperchio magari è curvo o non va bene, una piastrina di metallo, qualcosa. Io... Per esempio, ce l'ho in camera, ho una piastra 50x50, no? Di quelle librerie in metallo, non so se stai ascoltando, sai quelle librerie in metallo? Questa è quadrata, cioè dei buchi laterali, volendo uno se la potrebbe fissare fissando la ringhiera in modo che non cada. E quello è un ottimo piano riflettente, ho provato, c'ha 1,2 dentro casa, figurati. Massimiliano, un'antenna così l'ho vista, mi pare, o i carabinieri o la polizia, adesso non mi ricordo, non ho i carabinieri forse, c'erano più o meno uguali. E dove l'hai fissata tu, dove l'hai attaccata, alla base magnetica? No, non si vede sotto, capito, si vede solo la parte di sopra dove c'è l'attacco. Aspetta che non sono andato il campanello, scusate. Eia, oppure gli avevo consigliato questa, la Sirio CX4340, quello è bello che non ha bisogno di alcun piano riflettente né nulla perché è da base, e c'ha anche gli attacchi giusti per ringhiera, è già bella e pronta, però lui vuole provare altre alternative, no? Prima di spendere soldi, e quindi proviamo questo sistema. Poi il rosmetro è abbastanza fedele, anche se costa poco, è una gran cosa il rosmetro VHF, perché uno la piazza, magari c'ha le stazionarie 1000 e non se ne accorge, capito? No, Massimiliano, ricordi quella che mi avevi dato tu dentro la busta, 70 centimetri, te la ricordi, per i 70 centimetri con la bobina? La bobina? Quella la bobina, no, la mi avevi dato due. Una Grand Prix che poi cosa avevamo fatto, non mi ricordo, e un'altra che avevi detto, questa non so che frequenza fa, quella per i 400 mega, 70 centimetri, quella lì risuona proprio da qua, perché era per i telefoni quella lì, capito? Per i telefoni, quindi quella lì risuona proprio in PMR. Ce l'ho qua, è qua a casa, e c'ha quei radiali grandi, tipo la Mantova. Quella lì è per i 400 mega, 70 centimetri, capito? Ed è proprio era per i Goldatex, così si chiama, Marco. Deia, però l'importante è che risuoni intorno ai 440, eh? E beh, se i telefoni portatili erano da 450 a 470. Ah, ma quelli erano addirittura i telefoni, i Motorola veicolari, i Cibarasoni, come ce l'aveva il prefetto, sì, si può provare, magari un po' più corto anche, un po' più corto, ma insomma tutto si può provare, l'importante è fare le prove, infatti domani prendo baracca Burattini, provo ad andare da Gianni, vediamo di combinare qualcosa, dai, fare le prove, c'ho anche il rosmetro VEU. Sì, vabbè, quello, vabbè. No, ma questa non è da mettere nel fogliolo. C'è il radiale in fibra, in plastificata, come quelli della Mantova. Sono lunghi 1,20 metri i radiali. Ne ha 4. Capito? E l'antenna sarà da 1 metro e... La bobina ce l'ho qua dietro la porta, sarà 1,20 metri, 1,30 metri di antenna. Tutta in alluminio con la carica centrale, capito? E poi c'è la regolazione dello stilo per le stazionarie. Un attimino, dai Marco, ci sentiamo domani, devo andare che c'è gente, dai. Ci sentiamo, buona serata a tutti. ciao, ciao, ciao. Ciao Gianni, a domani, dai. Arriviti a quella di domenica, o ma ci vediamo se ci vediamo. Però dove è la propria, la piazza tua, a vedere. Capito? Però c'è radiale un bel grandi, Te lo metto in macchina, te lo scendo, però mi hai rotto le balle e te passare a prendere. Ce l'ho qua, in stanza. C'è un bloccato, per perdono. 2 metri, no, 2 metri. 2 metri è questo. Ed è il piantone, quindi ci sono già i furi con i dadi per mettere un altro palo dentro. E beh, non gliela puoi dire della supposta maniera. Ma così è, allora non esegui tu. Tu non esegui, Daniele, ciamba cavallo. Il cavallo è buono, e allora la supposta non funziona. No, la supposta non abbiamo altro, Daniele. Non si può fare, non si può fare, arrangiati. Sì, però beh, ma io non ho problemi. Io domenica sono libero, ti chiamo, intanto c'è tutto qua dentro in stanza. C'ho il palo telescopico, con le divisioni, mi pare che ce n'è una, aspetta che lo controllo di dato. No, ah no, c'è anche il cavallotto, tutte cose, vabbè. Comunque ci vogliono due pulloncini da chiave d'attrici, te li metto. E l'antenna, la metto in macchina nella 600, domenica mattina ti chiamo e te ne scendo, così la proviamo, capito? La provi, perché quella è buona come antenna, se risuona quella è un'antenna seria, cioè è bella anche esteticamente, capito? C'ha dei bei radiali, sono neri i radiali, però non c'è più già chi sono miei, io ce l'ho dato solo HF perché VEU io non ne ho mai avuto bisogno, la verità, e quindi non ne ho mai comprato perché l'antenna è sempre quella e l'ho smettrata, quello che usiamo noi stazionari di solito non ne hanno, quindi non ho mai avuto problemi e quindi non ne ho. Mi pare che ce l'abbia Gigi quello HF, VHF, VHF. Beh, sicuramente se risuona va meglio di quella, sicuramente. Capito? Anche perché questa si può mettere bene e non dà l'occhio, soprattutto deve essere un'antenna della 27 con questi radiali così grandi. Capito, Massimilia? Quindi si può mettere anche da qualche altra parte col palo, eccetera, eccetera. Eia, arrugginito il palo, Claudio. Arrugginito vai la ceta tu, in gallurese, che ti arrugginito? I pari miei sono tutti zingati, acciaio inossidabile, tutti nuovi, cos'è arrugginito? No, se acciaio inossidabile non può essere zincato, è metallo zincato, dai, ferro, acciaio, normale, no, inossidabile. Va bene, va bene. Vabbè, Rosmet è la gran cosa, perché magari non te ne accorgi, il scibasso deve per le stazionarie, capito? Io ne avevo preso uno da 30 euro della Oxin, mi pare, e fa VEU. Diciamo che, cioè, se ci sono le segna, se non ci sono non le segna assolutamente. Guarda, sono veramente contento di quell'apparecchietto, di quel rosmetrino. E vabbè, dai, poi si vedrà. No, ma io non ne ho mai avuto perché le radio che c'è io c'hanno il rosmetro incorporato, capito? Quindi lo posso vedere da lì se sono stazionale, ma cazzo c'è 5 anni, 5, 6, 7, l'antenna sul tetto non mi ha mai creato problemi, quindi non ne ho mai misurato. La prima volta le misurate ed erano 1 in VHF, 1 in 2, quasi 1 in 3 in VHF. Capito, ma quando ci avevo l'altro cavo, eccetera, eccetera, adesso c'è tutto impianto nuovo, quindi non penso che ci siano poi. No, ti ho detto che ne ho zingati, quindi solo zingati, e ne ho anche in acciaio inossidabile dei tubi, però di diametro che non vanno bene per montare quell'antenna. Capito? Perciò problemi di tubi non ne ho, ce ne ho sui massarra di tubi a voglia, però questo l'avevo trovato al lavoro da 2 metri, che è un piantone con i fori per mettere, per aggiungere l'altro, non sono portato a casa, non so dove l'hanno buttato, forse da qualche palo di corso, di telefono, non lo so, capito? E quindi non lo sono portato a casa e ce l'ho ancora qua in stanza, Massimiliano, quindi domenica mattina giù la piazza in questa antenna, vediamo, perché le caratteristiche sono da 4,50 a 4,70 mi pare, o da 4,40 a 4,70 addirittura, quindi dovrebbe regionare, si tratta solo di trovarla, cioè va bene, però è per 70 cm, per le UHF c'è la dritta, perciò si prova, c'è una bella bobina, e va bene, si prova e si vede un po'. E allora già va bene, già va bene, se finisce a mercoledì già va bene, no, io dopo Natale, dal 27 in poi, dal 27 al 6 mi pare, al 6 compreso, dal 28 al 6, non mi ricordo, sono i miei che mi hanno mandato, ma non mi ricordo. Va bene, avanti Marco, riprendi. Eia. Comunque, va bene, Gianni non la vuol mettere base, perché deve fare calate di cavo, sennò quella lì era, quella mini antenna alla base era anche discreta, capito, quella Sirio CX440, però dovrebbe fare altre calate di cavo, salire sul terrazzo, manomori, eccetera, e anch'io non la metto perché sennò, poi da me sono troppi metri, dai, sono 50 e più metri, non basta nemmeno la K1000 per la UHF, perché darebbe perdita lo stesso, capito? Va bene, io mi bevo il caffè, dai, già sono qua. E io, beh, a perdita ci vogliamo capi buoni per le due, per le due, senza un bel dubbio. Però per lui ce ne facciamo due per fare due chiatti e già via il culo, già va bene. Gappa gappa. E quindi Massimiliano, Daniela, c'è la febbre? Fai tranquillo Massimiliano, io sono salito con Filippo, insomma. Mi metto il pigiamino e siamo a posto, dai, già sono qua. Marco è andato a prendersi il caffè. E io già sono qua. Ma, chiappa, chiappa. Vabbè, c'è un altro problema che non abbiamo considerato. Conta che lui potrà uscire solo con 4 watt massimi. Cioè col portatile più antenna eventualmente alla ringhiera. Quindi comunque con 4 watt non tutti lo sentiranno. Cioè lui mi sente, ma perché certe volte sparo 40 watt di botto, o 35, quanti sono, insomma, quando non mi sentono metto a manetta, capito? Invece col 4 watt, Gio Maria per esempio dice, sei un po' frusciato, capito? Sei un po' basso. Però se l'antenna è già fronte strada, perché per noi cos'è meglio, fronte strada, per te soprattutto di posizione, no? Perché sennò il parcheggio è dalla parte opposta, ecco, quindi fronte strada dovrebbe migliorare, almeno per te, K. Ma anche per te sicuramente, fronte strada per me sicuramente, visto che lui è nato, migliora tantissimo, però ci potrebbe essere qualche varco anche dall'altra parte, riesco a sentirlo, ma così da dentro casa, con l'antenna in gomma, assolutamente, assolutamente. Guarda, c'era Massimiliano il giorno qua, abbiamo provato il suo portatile con l'antennino da qua dentro, io sono al secondo piano, e poi Gio Maria ci sentiva, capito? Ci sentiva, quindi non ho ostacoli, assolutamente, neanche riflessi, riflessioni interne. È proprio lui che ha una riflessione verso di me. Verso di te riesce un po' magari di meno e quindi riesce a sentirlo, ma qua non arriva proprio, abbiamo fatto in tutte le maniere. Eia. Poi vabbè, se lo metti all'autostrada forse migliora per noi, peggiora per Porto Torres, magari solo su Sennori. Se invece lo mette lato garage, lato parcheggi lì, interni, migliora per Porto Torres e per tutta la costa, diciamo, dai. Sì, sicuramente sì, scusami, stavo cambiando. Sicuramente sì, no, ma io ho provato l'antennino in gomma. Attaccata l'antenna, anzi, no, nulla, ho provato quello di Massimiliano, perché era salito a prendersi il microfonino. Ha provato col gommino Massimiliano da qua. E arriva benissimo, capito? Proprio la zona mia che non ha riflessioni, è lui che, perché se avessi avuto riflessioni anche io, con l'antenna nelle condizioni in cui l'ho messa nella finestra, al secondo piano, non arriverei da nessuna parte, invece arriva con lo scala a tutte le parti, non solo da te come arrivo, ma verso la zona di giù arrivo. ma le... tu parli delle riflessioni come cosa negativa, in realtà se non c'è la portata ottica sono proprio fenomeni di riflessione che aiutano, c'è il segnale d'imbalza da una parte all'altra e riesce ad arrivare a destinazione, non sono una cosa negativa le riflessioni, anzi potrebbero essere una cosa positiva. Sai, rimbalza su palazzi, colline, riesce ad arrivare lì dove in portata ottica non arriva, ecco. Ti ho capito quello che ti voglio dire io, però ci possono essere tra me e lui riflessioni negative, nel senso che abbiamo qualche ostacolo, proprio non abbiamo vista ottica. E beh, è normale, la riflessione ben venga, però in positività, ma con lui è proprio negativa la cosa. Ehi, adesso domani mi sei, molto probabilmente, tanto io cosa ho da fare? Mangio prima o mangio al ritorno, vado da lui e porto quest'antennino, rosmetro, spezzoni, adattatori, però non mi viene in mente niente, cioè se non dovesse andare bene quell'antenna attaccata alla ringhiera o con qualche piastra metallica leggera, no? Quella mirino di ferro leggero, non saprei come fare, cosa mettere. Io glielo ho detto, questa antenna qui, la Sirio, va bene attaccata al balcone, però costa, 38 euro più spedizione, si dovrebbe sobbarcare quella spesa, ecco, costa il doppio di un'antenna veicolare, più del doppio di un antennino da 50 centimetri, capito? Se la sobbarca la spesa, però se il problema lo risolve, caspita, una cosa che va bene, tanto oramai siamo un po' qua, siamo in PMR, ci divertiamo e ci scambiamo le chiacchiere tutti, io a lui non lo sento, mi dispiace, lo devo fare. Ti ripeto, l'unica cosa che io posso fare per tirarlo fuori è mettere la posizione verticale della direttiva dell'IHF. Se fa bella giornata, oggi c'era freddo. Capito? Stamattina sono arrivato tardi e non ho potuto fare, comunque mi ho preparato tutto, se ci riesco tra domani, sabato, insomma, vedo un po', la giro, ci vuole 5 minuti, dai, attacco il PL e faccio la prova poi, ma sicuramente al 100% lo tiro fuori, perché dato la direttiva non limita la proiezione verticale a 40 metri di altezza, non penso ci siano problemi. No, anzi appunto verticale dovrebbe coincidere, coincide con la sua emissione, dovrebbe ascoltarlo meglio, puntando la giusta, vabbè dai, noi proviamo a fare il possibile, domani vediamo cosa ne esce, poi ha detto le vuole basse, le antenne per evitare che dalla ringhiera tocchi qualche roba stesa, no? Quindi più corta è meglio è. Andava bene anche quella Sirio. Bene. Pensa che io ne volevo comprare un'altra di quelle Sirio 440. Per usarle in zone, foranee, far prove da. Solo che alla fine se sono in macchina che vado in campagna, in zone alte, ci usa l'antenna veicolare, usami una futtiamo di portarmi un'antenna base. E infatti poi non l'ho presa, dai. Ti dirò di più, io la NR770 la sto usando lato portiera, con quell'attacco laterale alla portiera, no? Simil grondina, va bene, ma sono sicuro che se io metto quell'antenna su base magnetica, la metto al centro tetto, riceve e trasmette molto molto meglio, perché la riflessione del centro tetto gli dà uno spunto in più. Avevamo già provato con l'antenna di baracchino, mettendo la stessa antenna con l'attacco laterale alla portiera, mettendola al centro tetto, c'era un aumento di un Santiago, forse anche due, figurati quanto fa il piano riflettente del centro tetto, molto molto buono. E io ce l'ho quella lì, però non c'è più quella grondina della macchina, capito? Io ce l'ho con l'attacco lì. E se il coso, l'angolare non è molto, molto, come si dice, molto spesso, entra quella lì, entra, perché c'ha le viti che poi stringi e c'ha l'attacco PL, capito? Io posso anche eliminare la mia base magnetica, usare quella direttamente sulla, attaccata alla mirino. Caspita, sarebbe una canonata. Domani la provo a vedere. Voglio vedere un po' se cambia qualcosa, se mi hai dato l'idea, perché ce l'ho anch'io quella basettina lì. Attacco grondina. Capite, c'ha le due vitine che aveva da 8, da 6, da quante, da 7, boh, che si stringono. Questa è la grondina, le rimane fissa, e va molto bene. Ce l'avevo nella smart perché non potevo buccare, e quindi l'avevo messa ad un angolo. Va bene, va bene. Comunque, se si riesce a fare qualcosa per Gianni mi fa piacere, perché è un casino. No, non arriva qua. Eia. Per esempio, io da dentro casa, giustamente col comino arrivo da te, ma non arrivo dagli altri, capito? Da Pomponio non tanto, da te arrivo meglio se sei più in alto, hai antenne professionali, capito? Però avere l'antenna fuori, anche fuori dalla finestra, fuori dal balcone, dal terrazzino, vabbè, io il balcone lo chiamo terrazzino, ma è già una cosa molto positiva, quindi vediamo cosa decide, dai. Ok, va bene Claudio, io qua ho finito il caffè, comincio a trasferirmi in zona TV, sentiamo domani anche per le prove, quindi io cercherò di andare da Gianni quando c'è molta gente in PMR, non troppo presto ma nemmeno troppo tardi, perché sennò poi alle 7 Gio Maria chiude, per esempio, spesso, quindi non fa fare le prove, capito? Ok, dai, ci sentiamo domani, buon tutto, e buonanotte, dai, ci sentiamo domani. Ciao Marco, grazie delle chiacchiere, ciao anche a Massimiliano, se in ascolto, a tutto il QRA lì, Gio Maria, Giulio, se no chiunque fosse in ascolto, anche a Gianni, a tutti, ci sentiamo domani. Va bene, a domani, sì, ma mi va a tenere un colpo di telefono, io sono a casa, capito, mi riposo un pochino dopo pranzo, io alle 5 sono già attivo, di solito non spengo il telefono. 5 e mezzo, se sei da Gianni che non mi senti in radio, mi fa un colpo il telefono, fai chiamare da Gianni, io vengo qua, accendo il PMR e facciamo la prova, capito? Quindi non ti preoccupare. Va bene, a domani, ciao, passo e chiudo. Eia, già ce l'ho il numero io, ti ricordi quella volta che era portatore che mi avevi chiamato? La matta di Nevaria che sta pure i tuoi pregibili a Dio, tutti bastardi che... Cos'è che ti avevano detto? Mila, lo vedi, fondo scala da Porto Torres! E stavo pompando forte. Sì, fondo scala da Porto Torres. Non era quello il problema. Vabbè, lasciamo perdere. Acqua passata, adesso pensiamo a divertirci. Sbattetene le balle, io ho imparato a sbattermi le balle, faccio quello che mi pare, piace con la roba mia, non devo prendere ordini da nessuno, non mi lasciano le balle ai teanti. Ciao Marco, buonanotte, buona cena, buon tutto alle prossime. E a domani, ciao ciao. Ciao ciao ciao.